Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. 40 milioni di euro sono i fondi messi a disposizione dal governo per favorire l'apertura di asili nido condominiali. Quella del nido familiare è un'esperienza già estremamente radicata nel nord Europa grazie alla presenza delle cosiddette Tagesmütter, le mamme giornaliere, ed è un'esperienza che è stata importata un po' più di recente nel nostro paese, ma è comunque un'esperienza che è già 10 anni di vita. I requisiti necessari per condurre un'attività di questo tipo variano in base a quanto stabilito dalle amministrazioni locali. A fare da apripista la provincia di Trento, patria italiana delle mamme di giorno, che prevede l'adesione delle educatrici ad una cooperativa centrale. Diversa la strada scelta invece dalla regione Lombardia, anche in questo caso però parliamo di una regione che ha pure un'esperienza decennale, che lascia ai singoli nido condominiali la scelta di unirsi e costituire delle associazioni. Il primo passo comunque da fare per chi volesse intraprendere questo mestiere è proprio quello di verificare l'esistenza di una normativa locale. Oggi ci faremo raccontare l'esperienza appunto di chi ha avviato un'attività di questo tipo e cercheremo di dare delle indicazioni pratiche alle nostre ascoltatrici, soprattutto per intraprendere un'attività di asilo condominiale nel rispetto della normativa. Ci saranno con noi questa mattina Franca De Silvestro, responsabile pedagogico del servizio Tagesmütter del Trentino, Rita Zecker, fondatore del network Nidi Famiglia familiari Happy Child, quindi questa sarà l'esperienza lombarda, e poi Anna Paola Perissinotto, coordinatrice della cooperativa Il Girotondo delle Mamme, quindi l'esperienza veneta. Naturalmente microfoni aperti a voi, 800 24 00 24 è il numero verde che potete già iniziare a fare per naturalmente interpellarci su questo argomento, chiederci suggerimenti o se avete già usufruito di un servizio di questo tipo in qualità di genitori. Quanto vi costa, anche perché questo è anche l'aspetto che ci interessa molto stamattina affrontare. Oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. La borsa è negativa questa mattina, ne abbiamo già dato conto nel corso del giornale radio. Anche ieri abbiamo avuto una nuova battuta d'arresto per i mercati europei, soprattutto nella seconda parte, perché la prima parte della mattinata era stata più favorevole. E dopo dunque lo scivolone del finale, che tra l'altro si è ripetuto anche a Wall Street questa mattina in Asia, oggi una debolezza abbastanza discreta sta pervadendo i listini del vecchio continente. Sono adesso appena appena positivi Francoforte e Londra, Parigi ancora in calo dello 0,4%, Milano meno 0,47%, quindi una borsa che non riesce a risollevarsi un po' probabilmente anche per le motivazioni di cui abbiamo dato conto negli ultimi giorni. Forse è l'economia che ancora non riparte in una maniera che serve al mercato, e su queste indicazioni ancora macroeconomiche non convincenti il mercato azionario appunto preferisce prendersi ancora qualche settimana di pausa, presumibilmente anche nell'attesa di vedere cosa succederà a settembre, se le aziende riusciranno a ripartire dopo la pausa estiva. Quindi ancora l'economia che tipo di indicazioni darà a partire dalla fase immediatamente successiva all'estate. Vediamo un po' Piazza Affari, stamattina sta andando piuttosto bene. STM in rialzo di 2 punti percentuali, il colosso dei semiconduttori ha avuto un rapporto positivo di Bank of America, c'è una raccomandazione buy, cioè comprare, e poi c'è un certo interesse stamattina sul settore tecnologico perché la concorrente tedesca Infineon ha annunciato di aver venduto le attività operanti nella telefonia fissa ad un fondo americano, per cui un settore un po' in movimento che stamattina si riflette anche sulle quotazioni dei titoli appunto interessati. Finmeccanica più 1,96, Terna più 1,50, Mondadori in rialzo di 1 punto con Enel, Lottomatica più 0,9, UbiBanca più 0,7, Eni più 0,6%. Segno meno invece sulla Popolare di Milano, che peraltro era partita bene, poi ha bruciato tutto quello che aveva guadagnato, addirittura arrivando a perdere quasi 4 punti stamattina. Secondo le indiscrezioni delle sale operative, a condizionare la seduta la scarsa adesione al prestito convertendo che si è chiusa ieri. La sottoscrizione si è chiusa ieri appunto ed c'è stata una sottoscrizione minima dei diritti e di opzione per questa appunto per questo prestito, per cui evidentemente una notizia che ha deluso il mercato, il titolo sta scendendo parecchio. occhio. Pirelli meno 2,86, Luxottica meno 2,50, Tenaris meno 2,30 con un calo di 2 punti. Troviamo anche Unipol, Campari, il Banco Popolare, Ansaldo meno 1,7, abbiamo un ribasso di 1,5 punti per Telecom, per Unicredit e di nuovo anche per Fiat. Euro su dollaro a 1,39,23. Abbiamo sentito del dato sulle PIL di Eurolandia, che è decisamente poco confortante, meno 2,5 punti per il primo trimestre. C'è un'altra notizia di cui voglio darvi conto, una notizia relativa all'assemblea dell'ABI, che ovviamente stiamo seguendo questa mattina. Ha già parlato il presidente dell'ABI Corrado Fassola, ministro dell'economia Giulio Tremonti, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Ci sono molte indicazioni interessanti per quello che riguarda il rapporto banca-cliente e noi di tutto questo parleremo domani a Salva Danaio. Allora, lasciamo la borsa, lasciamo l'assemblea dell'ABI perché ce ne occuperemo appunto domani. Andiamo invece al tema di questa mattina. Per aprire i nidi familiari il governo è pronto a stanziare 40 milioni di euro. Intanto sentiamo già come funzionano le esperienze più consolidate in Italia. 40 milioni di euro. A tanto ammonta il fondo messo a disposizione dal governo per favorire l'apertura di asili nido condominiali. Una tradizione, quella del nido familiare, già estremamente radicata in Nord Europa, grazie alla presenza delle celebri Tagesmütter, le mamme giornaliere, e importata di recente anche in Italia. I requisiti necessari per diventare Tagesmütter e condurre attività di questo tipo variano in base a quanto stabilito dalle amministrazioni locali. A fare da apripista la provincia di Trento, patria italiana delle mamme giornaliere, che prevede l'adesione delle educatrici a una cooperativa centrale. Diversa la strada scelta dalla regione Lombardia, che lascia invece ai singoli nidi condominiali la scelta di unirsi e costituire delle associazioni. Il primo passo comunque da fare per chi volesse intraprendere questo mestiere è proprio il verificare l'esistenza di una normativa locale. E nonostante al momento molte province italiane ne siano sprovviste, è probabile che proprio grazie al finanziamento stanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, la situazione potrebbe cambiare a breve e sbloccarsi. Un fattore questo di estrema importanza, considerato che ci sono in ballo anche due importanti obiettivi comunitari da centrare. Il 33% di posti disponibili negli asili rispetto al numero di bambini presenti in Italia e il 60% di tasso di occupazione femminile entro il 2010, come previsto dal Trattato di Lisbona. Per diventare Tagesmütter non occorre un titolo di studio superiore, ma bisogna sottoporsi a un periodo di formazione presso enti locali o presso reti di nidi condominiali. Le spese da affrontare per avviare l'attività si aggirano intorno ai 5-6 mila euro, a fronte dei circa 500 euro diretta che si ricevono ogni mese per ciascun bambino. Una volta avviata l'attività, che generalmente si traduce nell'accudire dai 3 ai 6 bambini di un'età compresa tra 3 e 36 mesi, non resta dunque che munirsi di una buona dose di pazienza ed entusiasmo. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per interagire con noi questa mattina su questo argomento che probabilmente appassionerà molte mamme, sia quelle che devono lasciare in qualche maniera in custodia il proprio bambino per poter proseguire la propria attività lavorativa e Dio solo sa quanto ce n'è bisogno in questo momento di far quadrare il bilancio familiare, ma probabilmente interessa anche tutte quelle mamme che invece hanno la disponibilità di tempo e magari anche di spazio per poter avviare un'attività di questo tipo. Allora questa mattina vogliamo mettervi a disposizione le esperienze di maggior successo nel nostro paese. Buongiorno a Franca De Silvestro, responsabile pedagogico del servizio Tagesmütter del Trentino. Dottoressa De Silvestro, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo con lei perché vi abbiamo definite nella nostra scheda la patria italiana delle mamme giornaliere, anche se in realtà ad onor di cronaca bisogna dire che anche la Lombardia è partita 10 anni fa grazie a questa legge che disciplinava un po' la questione, la legge 23 del 99. Il modello però è molto diverso tra il Trento e la Lombardia, lo dicevamo anche nella nostra scheda. L'importante però è che poi il servizio a favore della famiglia sia di elevata qualità nella stessa misura. Dottoressa De Silvestro, insomma, 10 anni di attività hanno portato il Trentino a, come dire, manifestare una realtà di che tipo oggi? Ma guardi, oggi noi, appunto, è l'unica cooperativa in questo momento accreditata in Trentino che offre questo tipo di servizio, e sul territorio montuoso e con tutte le valli che si articolano in due grandi città quali Trento e Rovereto, noi abbiamo 85 nidi familiari e mensilmente vengono accolti nelle nostre, nei nostri nidi 400 bambini. Ecco, questi sono un po' i numeri riferiti a chi usa il servizio e di conseguenza all'età che smotta. Quindi per ogni nido quanti bambini, dottoressa Silvestro? Ecco, c'è una legge provinciale in Trentino che è molto dettagliata e molto specifica, che è stata varata nel 2002 e quindi ha stabilito tutti i criteri possibili perché questo servizio appartenga ai servizi per l'infanzia riconosciuto, e quindi ha dato queste caratteristiche per cui una Tagesmutter può accogliere al proprio domicilio massimo 5 bambini in compresenza. Se questi bimbi però sono sotto i 9 mesi, allora possono essere solo 3. Questo cosa significa? Che le famiglie fanno richiesta di usufruire il servizio e danno un loro bisogno, anche perché oggi davvero la società, con tutte queste ricchezze di orari e di turnistiche, richiedono dei servizi flessibili. Quindi una Tagesmutter rispetta questi parametri, per cui 3 se sono sotto i 9 mesi e 5 se il numero è un numero, un gruppo misto. Però può rispondere anche a molte famiglie, perché alcuni usano il servizio solo alcuni giorni alla settimana, altri solo la mattina, altri solo al pomeriggio. Quindi la legge provinciale ha stabilito questi criteri che possa essere usato da un minimo di 2 ore giornaliere a un massimo di 11 ore giornaliere. Quindi lei capisce che una Tagesmutter può dare il suo servizio e rispondere a molte famiglie, risponde certo, proprio in base alla loro richiesta. E quindi, come dire, l'attività centralizzata in qualche maniera vi dà l'opportunità di poter coordinare tutto questo nel miglior modo possibile. Alle spalle di questi 85 nidi familiari ci sono 15 persone assunte che gestiscono e coordina proprio la parte più burocratica, amministrativa del servizio. Tra questi, appunto, la pedagogista, la psicologa, le coordinatrici gestionali che accolgono le richieste dei genitori e propongono la situazione migliore per vicinanza rispetto al lavoro, certo, rispetto alla casa o per altre richieste. Ecco, poi naturalmente questo lo faremo nel corso di tutta la trasmissione. Quello che ci interessa è capire quale è l'onere, in qualche maniera l'investimento che un'imprenditrice che volesse avviare un'attività di questo tipo deve sostenere. Ci sono anche dei requisiti molto stringenti per quello che riguarda la formazione a cui si deve sottoporre, e anche qua situazione molto differenziata sul territorio, però ci sono dei parametri di base dai quali non si può sfuggire. Rita Zecker, fondatrice del network Nidi Familiari Happy Child, anche in questo caso un'attività che prende le mosse partendo dal presupposto legislativo della legge 23 del 99. E la regione Lombardia come si è adeguata a questa disciplina nazionale, dottoressa Zecker, e appunto ci può spiegare le, come dire, caratteristiche molto diverse rispetto all'esperienza trentina della, invece appunto dell'esperienza lombarda? Allora, l'esperienza lombarda è questa, che con la legge 23 è stata creata la possibilità dei genitori di associarsi all'epoca erano 7 genitori, poi con la legge definitiva della 2588 del 2005 i genitori sono diventati 5, cioè i bambini che contemporaneamente possono frequentare l'asilo nido sono 5 e non più 7. E però nel periodo iniziale era così, e quindi c'è stata questa idea della sussidiarietà, cioè i genitori si associano e decidono di affidare a una persona esterna, a una Tagesmutter, a chiunque, diciamo, che ritengano in condizione di gestire i loro bambini, di dare questo compito. Normalmente succede che la stessa fa parte dell'associazione, no? In modo tale che avviene che è la stessa educatrice, chiamiamo, che esegue anche il compito di coordinatrice e riunisce i genitori in associazione, che è la cosa più semplice, altrimenti i genitori alla fine non ci sarebbero più, diciamo, non sarebbero più disponibili. disponibili. Ecco, questo noi abbiamo seguito all'inizio con la legge 23 e abbiamo fatto nascere qualche centinaio di asili nido. Pensi che con la legge 23 sono stati finanziati 1016 asili infatti nido, e sono stati lanciati in questo senso proprio per perché questa cosa diventi un fuoco, cioè non che resti lì una cosa molto piccola. E cosa dava la regione? Dava un contributo per la partenza, però oggi non c'è più questa, nel senso che è diventata legge, e a questo punto la regione Lombardia dà dei parametri di accreditamento e dice cari genitori o care diciamo Tagesmutter, voi volete fare un nido famiglia, bene, allora minimo 6 ore al giorno per l'accreditamento, bisogna che ci sia almeno 6 ore al giorno col pasto compreso, in modo che sia un vero nido che abbia una diciamo una consistenza anche numerica per via dei costi. Il numero minimo di bimbi? Il numero minimo 3 a 5. Benissimo, come nel caso Trentino. Dopodiché la maestra, la persona che gestisce questo asilo nido, deve garantire con l'accreditamento almeno 20 ore all'anno di formazione continua e deve avere una coordinatore, una coordinatrice che garantisce un 50-100 ore all'anno a se stessa di formazione. Questa coordinatrice può gestirne tanti di asili nido, cioè no gestirne, lei dà la consulenza diciamo ai genitori e alla Tagesmutter, perché è una persona formata a questo e lei fa tutti gli anni questa formazione. È chiaro, a questo punto la regione dice tutti gli asili, tutte le diciamo i nidi famiglia che vogliono accreditarsi in regione faranno in modo tale, succederà questo, che i genitori potranno scegliere quel nido rispetto a un nido comunale alle stesse condizioni, cioè pagheranno in base all'ISEE, e la differenza che è poi che vorrei tradurla nel vantaggio delle famiglie, qual è? Di rivolgersi ad una struttura piuttosto che ad un'altra, che sono comunque nella maniera in uguale misura accreditate presso la regione, dottoressa Zecker. Cosa? Perché la retta media diciamo di un asilo nido di questi organizzati in Lombardia sta tra le 500 e le 600 euro a seconda l'orario della giornata, anche meno se è un part time diciamo, ma visto che si deve partire da 6 ore prossimamente diciamo sta tra le 500 e le 600. Di questi l'accreditamento sta tra le 500 e le 550, quindi praticamente non c'è dispersione economica nel modo più totale, perché la regione integra la differenza rispetto all'ISEE. La persona che lo organizza deve avere questa formazione e deve avere una coordinatrice che l'aiuta in tutto questo. Quindi diciamo che si riesce a far coinvolgere i genitori, che ne restano responsabili, visto che è un'attività molto piccola, sono i genitori quelli che sono primariamente responsabili, non è che portano il bambino punto e basta. Secondo, c'è un coordinatore che può gestire 10-15, come nel Veneto che ne gestisce 10-15, anche qui sono 10-15 e la maestra diciamo che deve fare queste 20 ore di formazione. Benissimo, non ci dica tutto adesso dottoressa Zecker, se no terminiamo la trasmissione e poi non ho più domande da farvi, ma sto scherzando naturalmente. Abbiamo anche Anna Paola per il Sinotto, per quello che riguarda l'esperienza veneta, che è stata più volte citata anche dalle parole delle sue altre colleghe. Dottoressa per il Sinotto, buongiorno. Buongiorno. Prima di farmi raccontare però da lei l'esperienza veneta, siccome ho curiosamente un uomo che come dire è la prima telefonata di questa mattina, è Federico da Ferrara che ci chiama e io lo saluto, lo ringrazio e gli faccio fare la domanda in modo tale che adesso cerchiamo di stabilire se con la dottoressa per il Sinotto possiamo rispondere a Federico, altrimenti giro la domanda anche alle nostre altre due coordinatrici e interlocutrici di questa mattina. Federico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io telefono da Ferrara, sono responsabile giovanile di un'associazione che fa servizio di accoglienza alla vita, quindi lavoro con le ragazze madri. Ovviamente è un problema molto serio, quello che si ritrovano magari in una situazione di famiglia composta da loro e dal figlio e hanno bisogno di lasciare il figlio per andare a lavorare. Io volevo chiedere, un'associazione Onlus ha la possibilità di fungere o come punto di riferimento per una serie di Tagesmutter, quindi diventare un'associazione che le riunisca in un determinato ambito territoriale, oppure se ha la possibilità di esercitare direttamente con i, diciamo, secondo le normative regionali, io sono dell'Emilia Romagna, quindi c'è la possibilità di esercitare direttamente questa attività. Grazie molte Federico. La volevo girare alla dottoressa Zecher questa domanda. Adesso abbiamo, non so quale sia, come dire, l'esperienza dell'Emilia Romagna rispetto alle Tagesmutter, però siccome so che lei va a, come dire, a fare anche attività di consulenza un po' in giro per tutta Italia, è stata di recente anche in Sicilia, cosa possiamo suggerire a Federico? Ma bisogna studiare bene la, la legge, diciamo, regionale. La legge regionale fino adesso non ha favorito questo, diciamo, in Emilia Romagna, sia perché chiedeva titoli di studio molto ampi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna studiare bene la cosa. Io presumo, come avete detto voi in apertura, che le regioni si adegueranno un pochettino, sceglieranno un qualche modello. Anzi, sarebbe molto opportuno che le regioni non scegliessero un modello unico, perché certe situazioni possono essere diverse, cioè possono aver bisogno di modelli diversi. Per esempio, il caso di questo signore è stupendo, perché lui sì che ha una, voglio dire, un tipo di clientela, tra virgolette, che ha una base uniforme, e quindi è logico che ci sia la possibilità per loro di fare una formazione centralizzata, di far trovare le Tagesmutter tutte insieme per la formazione, eccetera. Quindi io mi auguro che anche la regione, diciamo, Emilia-Romagna, che in questo momento non conosco perfettamente le ultime però è già un'indicazione a Federico, quella di andare a verificare se per esempio l'assessorato ai servizi sociali di questa regione può avere la possibilità di avere una consulenza su questa normativa. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, questa mattina stiamo parlando dei nidi familiari, perché il Ministero delle Pari Opportunità sta stanziando un fondo da 40 milioni di euro da destinare anche alla piccola imprenditorialità in questo settore. Se siete delle donne in ascolto, ma non è detto che occorra essere necessariamente una donna per avviare un'attività di questo tipo, ci sono già delle esperienze consolidate sul territorio, le Tagesmutter del Trentino, Happy Child in Lombardia e anche il Girotondo delle Mamme in Veneto, che è l'esperienza che ancora ci manca di raccontare questa mattina. Allora, Anna Paola Perissinotto, di nuovo buongiorno. Abbiamo sentito le differenze tra l'esperienza trentina e quella lombarda, credo che quella veneta si avvicini molto a quella lombarda per l'appunto. Prima però di farcela raccontare, dottoressa Perissinotto, le faccio una domanda di un'ascoltatrice alle 349-238-6666. Elisa ci chiede: sono di Bussolengo, in provincia di Verona. Esiste un sito o un elenco di queste mamme di giorno per poter verificare se ce ne sono nel mio paese? Che cosa le rispondiamo? Esiste un sito. La Regione Veneto si è proprio attivata in questo senso. Se lei accede al sito, che si chiama www.venetoperlafamiglia.it, avrà le notizie che le interessano, cioè l'elenco dei collaboratori educativi, che sono in pratica 131 attualmente, distribuiti su tutta la Regione Veneto. E questi elenchi portano appunto le sedi dei vari nidi in famiglia. Più che altro è un modo anche questo per, come dicevano anche prima le altre due dottoresse, per garantire la qualità del servizio, perché sono entrati sul sito solamente quei nidi che hanno i requisiti stabiliti dalla DGR 674 del 2008, che regola appunto proprio questi nuovi, diciamo così, servizi alla famiglia. Per avere l'accreditamento del nido, infatti, le operatrici, che si chiamano nel nostro caso collaboratori educativi, devono aver seguito questi corsi di formazione, devono avere i requisiti che la Regione chiede, cioè la civile abitazione, perché i nostri sono servizi da svolgere solo ed esclusivamente presso civili abitazioni. Sì. E una volta fatta la formazione, gli organizzatori, che in pratica sarebbero quelli che coordinano i vari servizi, ti danno il via libera, diciamo. Ogni organizzatore ha una responsabilità, e questa responsabilità, anche questa, è codificata da questa DGR, cioè noi dobbiamo assolutamente testare la sicurezza dell'abitazione. Certo, che credo che sia la qualità il parametro dal quale non si può assolutamente prescindere, certo. L'assicurazione, la Regione Veneto ha messo a disposizione di questi nidi in famiglia una copertura assicurativa, sia per responsabilità civile che anche per qualsiasi altro inconveniente che possa sorgere tra l'operatrice e i bambini, e proprio è una copertura che garantisce una totale copertura per quel che riguarda il nido, ma non solo all'interno, anche all'esterno, cioè anche per qualsiasi spostamento l'operatrice faccia con i bambini. Mm-hmm. È chiaro che è una cosa molto importante questa. Infatti, ecco. Dottoressa Perissinotto, quanto spende una famiglia veneta che si rivolge ad una... Ecco. La Regione Veneto, quando ha fatto questa delibera regionale, l'ha fatta proprio in funzione anche di questo, cioè di dare alle famiglie un buono famiglia, la chiama proprio così. Il famoso voucher. Un voucher, esattamente. Questi nidi, come dicevo prima, che sono registrati in questi elenchi, hanno diritto ad avere, le famiglie che portano i bambini in questi nidi hanno diritto ad avere un buono famiglia che si aggira, no, non è stato quantificato, in 70 euro al mese per quelle famiglie, quei bambini che hanno, frequentano per 80 ore, che sarebbe un part time, chiamiamolo le 4 ore, quindi intorno spenderebbero intorno ai 370 euro, io calcolo le tariffe che applichiamo noi, mm-hmm. poi altri nidi, non lo so, perché anche questo delle tariffe... No, no, certo, ovviamente parla per la sua esperienza. Diciamo che precisamente noi in circa le 4 ore al giorno verrebbero a costare alla famiglia 370 euro, detratti questi 70 che sono il buono che la Regione ti dà, purché i bambini frequentino per almeno 6 mesi di contratto continuativo, mm-hmm. oppure di 100 euro al mese qualora i bambini frequentino tempo pieno, per il tempo pieno, che cioè sono quante? 8 ore. 100 ore al mese, noi le quantifichiamo in 100 ore al mese, ecco. Perché comunque non è necessario che frequentino le 6 ore al giorno, ipotesi, possono frequentarne un giorno 8, un giorno 4, mm-hmm. perché l'elasticità del nostro servizio ti dà anche questa possibilità, cioè le ore vengono calcolate in base mensile, mm-hmm. la frequenza viene calcolata su base mensile, certo. Quindi anche questo praticamente paghi quello che consumi, tra virgolette. Allora, abbiamo sentito quelli che sono un po' i parametri di base, i requisiti di base delle varie esperienze sul territorio e abbiamo anche un po' dato un'infarinatura di base rispetto a quelli che sono i passi fondamentali per avviare un nido condominiale, anzi forse su questo ancora non siamo entrati bene nel dettaglio e ci cominceremo ad entrare adesso, perché il tema fondamentale è anche qual è la qualifica professionale che è necessario avere per poter diventare una piccola imprenditrice in questo settore. Chiaramente requisito di base, l'amore per i bambini, questo è un lavoro che secondo me non si inventa assolutamente, per quanto si possa avere tutta la miglior buona volontà del mondo, credo che questo sia il requisito dal quale non si possa assolutamente prescindere, avere una condizione abitativa assolutamente che rispetti tutti i parametri di sicurezza assolutamente indispensabili e fondamentali, ma bisogna anche seguire dei corsi di formazione e qua entrano un po' adesso in discussione, non dico alcune perplessità da parte di alcuni ascoltatori, ma abbiamo notato appunto che per esempio in Trentino si chiedono un tot di ore, in Lombardia se ne chiede un altro totale e in Veneto un altro numero ancora. Allora volevo far sentire la considerazione di Marinella da Brescia per poi appunto attivare un piccolo dibattito anche su questo. Marinella, benvenuta, ricordo il numero verde per intervenire è l'800240024. Marinella, buongiorno. Buongiorno, appunto, è proprio su questo discorso che volevo porre l'attenzione, nel senso che prima ho sentito l'intervento della dottoressa riguardo appunto alla situazione in Lombardia. Sì. Io sono un'educatrice e lavoro a Brescia, nel nido comunale di Brescia, e mi è sembrato veramente un po' non corretto mettere sullo stesso piano un discorso di nido comunale dove praticamente il personale è diplomato, laureato e ha alle spalle anni di esperienza, con una situazione, diciamo, praticamente locale dove la formazione si riduce a 20 ore annuali. Cioè, io penso che è giusto e corretto dare risposte diversificate alle esigenze dei genitori, all'utenza, è importante questo, perché una flessibilità è indispensabile coi tempi di oggi, ma però non si può veramente andare al di là del requisito della qualità e della formazione del personale. Certo, 20 ore hanno la priorità, penso, su discorso, rette, orari e tutto, no, quanto. Poi, tra l'altro, la formazione di un bambino è importante e mi è sembrato che in caso di questa legge si è tenuto in considerazione tutti gli aspetti, ma non quello imprescindibile del personale che si deve prendere cura di queste persone, che deve avere veramente una professionalità. Certo, Marinella, la ringrazio per la sua considerazione. Adesso faremo rispondere la dottoressa Rita Zeckel, che è stata chiamata in causa. Peraltro la legge che disciplina lo stanziamento di questi 40 milioni di euro da parte del Ministero delle Pari Opportunità, appunto per avviare asili nido condominiali nel nostro paese, chiede proprio come parametro necessario a chi intende avviare un'attività di questo tipo di seguire dei corsi di aggiornamento continuo che vanno dalle 20 al massimo 40 ore l'anno. Rita Zeckel, Network Nidi Familiari Happy Child. Allora, c'è qualche insegnante, qualche maestra o qualche, adesso poi non so come si chiama, educatrice quelli del nido, che contestano un po', insomma, il numero delle ore di formazione che sono necessarie per poter avviare un'attività di questo tipo, essendo un po' svilita. Io forse non mi sono spiegata. La Regione Lombardia ha fatto l'accreditamento, sta facendo fare l'accreditamento e chiede formazione alla coordinatrice e alla maestra di 50-100 ore alla coordinatrice e 20 alla maestra, uguale identico sia nei nidi familiari sia nei nidi tradizionali o aziendali. Queste quindi, 20 diciamo, ore che sono uscite prima? Sì. Prima lascia questo all'idea imprenditoriale, alla persona che deve partire e ai genitori, perché ricordiamo che sono i genitori. Allora cosa succede? Che con la legge 23 chiedeva circa 200 ore più o meno, compreso anche un po' di stage per partire. Sì. Noi da parte nostra abbiamo pensato che al di là del pacchetto iniziale, che è diversissimo da regione a regione, il Veneto per esempio fa 60 ore iniziali e poi 40 strada facendo. Allora noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di dire facciamo la formazione iniziale, ma poi abbiamo scritto un volume che si chiama Guida all'apertura alla gestione di un nido familiare, perché quello che conta è poi qualunque dubbio sull'alimentazione, sulla sicurezza, sulla privacy, sui progetti da fare con i bambini eccetera, uno possa andare poi a riprenderselo. Allora non è sminuito questo, cioè nel senso che una persona che vuol fare questo lavoro con tre bambini, dobbiamo pensare che più o meno poco più di una mamma per certi versi, poi deve avere quella gioia, la voglia di continuare, di ampliare tutte le sue conoscenze, che possono arrivare a avere poi i 5 o i 6 in certi casi. Tra l'altro quindi volevo dire anche, certo, no, dottoressa Zeckel, peraltro non è perché una persona poi si diploma in maestra d'asilo, adesso non so neanche se esista più un tipo di diploma di questo tipo, debba per forza di cose finire nell'asilo nido pubblico, ma può anche, proprio in virtù di questa esperienza didattica che si è voluta dare, magari farsi una attività di libera imprenditorialità come questa, e a maggior ragione essere, come dire, anche valorizzata la sua professione, no? L'80% è un'opportunità. Delle nostre sono già maestre. L'80% sono già maestre o hanno una laurea, quindi non è allora è vero che viene valorizzata la maternità, come dire io ho fatto la mamma per 10-15 anni, adesso ho 40 anni, vorrei fare qualcosa, certo, e mettere a frutto il mio lavoro di mamma. Quel 60% di posti di lavoro alle donne, queste donne dai 40-45 anni non troverebbero nessun lavoro, riescono a fare questo lavoro perché loro hanno investito sulla maternità e a questo punto la utilizzano. Certo, aggiungendo formazione, avendo umiltà, avendo un coordinatore che l'aiuta, però la Regione Lombardia si è messa di mezzo. Perché poi i propri figli si conoscono molto bene, ma quelli degli altri no, pertanto bisogna anche, oltre ad avere un'attitudine personale, per questo bisogna avere anche una preparazione. Franca De Silvestro, invece, per quello che riguarda il Tagesmutter del Trentino, il servizio Tagesmutter, mi pare che le ore di formazione che voi chiedete è il più alto in assoluto. È il più in alto in assoluto e anche dal confronto con le colleghe lo sento confermare. In Trentino bisogna fare 800 ore di formazione, di cui 600 di teoria e 200 di tirocinio. Quindi questo è il requisito di partenza, può essere una terza media. Si deve ritornare a scuola praticamente con voi. Sì, la provincia, come dire, dà la possibilità a un ente formatore di farsi carico di questo percorso, che in sostanza è un anno di scuola. Anche in questo momento ci sono 28 Tagesmutter in formazione e alla fine viene proprio fatto un esame con un referente della provincia presente nella commissione d'esame, alcuni docenti che hanno accompagnato le signore nel corso di formazione, e viene rilasciata una qualifica. Però per poter svolgere l'attività di Tiger Smoother bisogna far parte di una cooperativa, quindi entrare a far parte di una cooperativa significa che la provincia impone nuovamente 30 ore di formazione annuale e la cooperativa stessa ne propone altre 60, accanto di aula in sostanza sono questi interventi qua. Accompagnano quotidianamente le Tiger Smoother lo staff organizzativo psicopedagogico, per cui a casa di una Tiger Smoother mensilmente sono previste una visita della coordinatrice gestionale. Nel corso di un anno ci sono 4 supervisioni, 3 supervisioni con la psicologa e 4 con la pedagogista. E quindi insomma il percorso continua naturalmente strada facendo man mano che l'attività ovviamente va avanti e si consolida. Prima di sentire naturalmente anche l'esperienza veneta, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, e abbiamo Marcello da Roma adesso. Marcello. Buongiorno. Io sono sia un docente che si occupa di ragazzi un po' più grandi, di 14-16 anni, eccetera, sia un diciamo, interessato per questioni fiscali, un movimento che si occupa di questioni fiscali. Io sono molto perplesso e aggiungo un po' di benzina sul fuoco alla vostra discussione. Per migliaia di anni le mamme si sono occupate dei figli dei vicini, si faceva così da quando le tribù andavano a caccia e le mamme si anche tra amiche capita anche adesso, Marcello, ne ho moltissime. Poi a un certo punto lo Stato ci ha cominciato a dire no, non si fa più perché ci sono le tasse, noi vediamo il servizio, perché ci sono i pedofili, perché ci sono i problemi di assicurazione. Va bene adesso mettere un po' di benzina sul fuoco, ma non esageriamo, Marcello. Non si può più tenere i bambini a casa, quei vicini, eccetera, ci sono delle esigenze di istruzione, di formazione, si va agli asili. Poi ci è stato detto non ci abbiamo i soldi per gli asili di tutti quanti. E quindi adesso cosa si fa? Si torna a stare a casa con mamme poco più o meno professionali, non lo so, che hanno fatto qualche corso, e si continua a pagare con la burocrazia sopra. Insomma, mi sembra un po' un giro che non ha prodotto molto, e si torna a fare quello che si faceva migliaia di anni fa, però pagando questa volta le tasse, con la burocrazia, con tutte queste cose. Marcello, è una bella considerazione la sua, sicuramente ne prendiamo atto. Di fatto questo progetto del Ministero delle Pari Opportunità, del quale noi abbiamo avuto modo di parlare anche con il sottosegretario Rauti, vuole, forse prendendo proprio coscienza di queste cose che lei ci diceva, vuole un po' disciplinare dal punto di vista legislativo queste iniziative. Dobbiamo prendere atto del fatto che oggi molte donne devono lasciare il lavoro perché non sanno dove mettere i propri figli, perché ovviamente non tutti hanno i genitori a disposizione, le scuole costano quello che costano, e magari organizzandosi tra amiche, poi con tutta la burocrazia che lei dice sopra, si può attivare qualcosa di più professionale. Però ovviamente è una cosa non facile, perché è una bella responsabilità prendersi cura dei figli degli altri. Detto questo, dottoressa Perissinotto, Girotondo delle Mamme dal Veneto, se vuole rispondere a Marcello, noi la sua risposta la ascoltiamo volentieri. Dobbiamo poi chiarire anche il numero delle ore di formazione che voi fate, chi la fa soprattutto questa formazione, perché ovviamente stiamo parlandone in termini molto generali, ma non abbiamo capito anche poi chi materialmente deve seguire la formazione costante delle Tiger Smoother, quindi delle donne imprenditrici nei nidi condominiali. Allora, per rispondere al signor Marcello dico questo: il discorso nostro è nato nel 2005 proprio per rispondere anche a questi obiettivi, cioè far rientrare nel mondo del lavoro delle donne che si erano momentaneamente allontanate per portare avanti il loro desiderio di maternità. Poi magari devono rientrare sul lavoro quando non fanno più in tempo di scrivere il nido. Abbiamo partecipato anche di recente a un workshop dell'Università Ca' Foscari di Venezia che si occupava proprio di questo discorso, il welfare misto privato per quel che riguarda anche il rientro nel mondo del lavoro delle donne. Magari tu sei stata fuori dal mondo del lavoro per un anno, due anni, la tua professionalità ne ha risentito. Allora, non è che tu debba rientrare e magari sentirti svilita nei tuoi ruoli. Puoi comunque fare questo tipo di lavoro e la cooperativa nel nostro caso, o anche se una si apre la partita IVA, perché la Regione Veneto ti dava diverse opportunità, ti paga i contributi, cioè la tua pensione, tu maturi le pratiche, le burocrazie a cui si riferiva il signor Marcello, sono quelle che ti danno un domani quando tu sarai in età pensionabile, certo, la tua pensione. Quindi è vero che ai tempi delle caverne ci si riuniva insieme, però il problema era che a 20 anni morivano anche. Adesso in realtà cominciano a entrare nel mondo del lavoro a pieno titolo a 30 anni. Se qualcuno comincia a dire io ho bisogno di stare a casa dal lavoro perché voglio curarmi i miei figli e poi magari un domani chi lo sa. Questo del bando che era il primo mamma per mamme, si chiamava proprio così ed era secondo me, dava già nel titolo un chiarimento di quello insomma, che era. Abbiamo risposto alla provocazione dell'ascoltatore. Per il Sinotto, io tra un minuto devo chiudere purtroppo, 30 secondi di tempo per raccontarci voi come fate la vostra formazione, come rassicurate anche i genitori. Allora, da questo punto di vista, noi appunto abbiamo cominciato proprio grazie a questo bando regionale. La formazione la faceva un ente formatore che era un nostro, diciamo, quello che poi era diventato anche un nostro partner di riferimento. Noi abbiamo fatto 150 ore di formazione, 120 più 30, cioè 30 di stage residenziale, proprio per renderci conto effettivamente come lavora una mamma con 3-4 bambini. Mm-hmm. Questo è molto importante secondo me, perché ti dà l'idea, una magari si spaventa quando le dicono devi tenere, puoi, perché il lavoro sia remunerativo, devi tenere almeno 3 bambini. E magari una non riesce a focalizzare bene il problema. Se invece vede e tocca con mano e vede che effettivamente una signora riesce a gestirsi i suoi 3-4 bambini, perché i bambini, una volta che tu hai dato delle regole, poi loro le rispettano. Mm-hmm. E quindi sì, diciamo che è così. Il discorso della formazione adesso nel nostro caso lo ha preso in mano la Regione Veneto. Benissimo. La Regione Veneto ci dà l'opportunità di seguire dei corsi di aggiornamento. Devo salutare la dottoressa Peri Sinotto, però siccome c'è il fondo del Ministero delle Pari Opportunità per il quale non sappiamo ancora quali sono i requisiti di base per poter accedere, allora torneremo naturalmente di nuovo a parlare di tutto questo, perché è un tema che ci piace, vogliamo aiutare le mamme naturalmente a tornare al lavoro serenamente, sapendo dove portano i bambini appunto, e sapendo anche di avere a che fare con assolutamente dei professionisti che si prendono cura di questi bambini, grazie anche alle Tage Smutter. Io ringrazio Franca De Silvestro, Rita Zeckel e Anna Paola per il Sinotto per essere state con noi. Buona giornata, buon lavoro naturalmente a tutte e tre. Noi torniamo domani. A tutti un saluto.